Euro Reportage. La voce dei cittadini europei. Acqua prima al traguardo. Di Anna Migliorati. Dovrei essere come l'acqua che si lascia andare, che scivola su tutto, che si fa assorbire, che supera ogni ostacolo finché non raggiunge il mare. E lì si ferma a meditare, per scegliere se essere ghiaccio o vapore, se fermarsi o se ricominciare. Dritta al traguardo, l'acqua diventa il primo banco di prova di una voce unica con cui parlano i cittadini europei. Dal 1 aprile 2012 esiste infatti uno strumento che permette di dialogare direttamente con la Commissione europea. Cadute le barriere di rappresentanza o governative, i singoli cittadini possono presentare le loro richieste e sollecitare che una legge venga messa in votazione. Si chiama l'Iniziativa Cittadina Europea, l'ICE. Unica condizione che sia una richiesta veramente europea. Per presentarla servono almeno 1 milione di firme raccolte entro un anno, ma soprattutto in almeno 7 paesi membri. In molti ci hanno provato, ponendo all'attenzione i temi più vari, dalla vivisezione al pluralismo dei media, ma una sola per ora, per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, ce l'ha ufficialmente fatta ed è dedicata al diritto all'acqua pubblica. In Germania, in Francia, in Polonia, in Spagna. Da oggi i cittadini europei possono chiedere alla Commissione Europea che l'acqua venga messa fuori dal mercato in tutta Europa. E ci serve il tuo contributo per centrare l'obiettivo. Una storia che parte da lontano, dalla natura dell'Europa, dalla svolta dell'Unione Europea che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009 ha voluto darsi anche nuovi ambiziosi obiettivi in fatto di cittadinanza attiva europea. Il regolamento però è entrato in vigore solo, dicevamo, nel 2012. 2 anni dopo, per la prima volta, ora scopriremo come andrà a finire. Per la prima volta, infatti, si passa alla fase 2. Un intrigo burocratico mai esplorato. Ci proviamo con l'aiuto di Evelina Jelemkowska-Luka, della rappresentanza in Italia della Commissione europea. Abbiamo avuto le prime 5 che sono arrivate alla scadenza di un anno e abbiamo 3 che sono arrivate, sicuramente una che è già confermata, che ha riempito soddisfatto i criteri. Riguarda la cosiddetta iniziativa Right to Water, di cui motto è l'acqua è un bene comune e non una merce, ed ha raccolto ampiamente il numero richiesto, precisione 1.659 voti, 543. Ecco, da più o meno tutti i paesi membri, non abbiamo ancora tutti i dati, però tanti hanno raggiunto il minimo, perché poi per ogni paese c'è un numero minimo di voti che deve essere raggiunto per poter essere considerato validamente un'iniziativa promossa dai cittadini di quel paese. Cosa succede a questo punto? Cosa prevede questo, diciamo così, rapporto diretto tra il cittadino e l'Unione Europea? Adesso, visto che questa è una richiesta che è rivolta alla Commissione Europea, che ha l'esclusività dell'iniziativa legislativa a livello dell'Unione Europea, la Commissione ha 3 mesi per incontrare gli organizzatori, invitarli a Bruxelles per permettergli di spiegare meglio la loro idea. Dopodiché verrà organizzato incontro col Parlamento europeo, dopodiché la Commissione adotta una risposta formale dove spiega che cosa ha intenzione di fare, quindi può proporre un atto legislativo, ma può anche non farlo, ma deve spiegare perché, che ovviamente uno sforzo tale richiesto dai cittadini di preparare l'iniziativa, la Commissione dovrà avere dei buoni motivi per non proseguirla, quindi è assolutamente una svolta, perché è uno strumento di democrazia diretta. Questo esiste già in vari paesi membri, esiste anche in Italia come iniziativa popolare, diciamo, ma a livello dell'Unione Europea è il primo. L'acqua è fatta per giocare, se ti tuffi dentro al mare. Mani, faccio, orecchie e denti, l'acqua è il massimo da bere. Quando calza, quando è sete, l'acqua è vita per un fiore, per un pesce nella rete. Dunque, in Europa si può far sentire direttamente la propria voce e il tema è di quelli che appassionano. Il 1.600.000 firme sono state raccolte in Italia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Olanda, Repubblica Ceca, Romania, Spagna. Un forum dedicato all'acqua volutamente europeo, ci racconta Corrado Oddi, uno dei promotori in Italia. L'idea di utilizzare questo nuovo strumento è nata dal Sindacato Europeo dei Servizi Pubblici, che ha raccolto attorno a sé tutti i soggetti e le reti che si occupano di acqua pubblica nei vari paesi dell'Unione Europea, ed è stata anche influenzata dal grande risultato referendario in Italia. Si è pensato in qualche modo di porre la questione a livello della dimensione europea. Diciamo una vera e propria unione di intenti. Assolutamente sì. Non siamo più semplicemente in presenza di movimenti nazionali, pur importanti. Io facevo riferimento prima alla nostra esperienza referendaria, oppure penso per esempio al fatto che nel 2010 Parigi ha ripubblicizzato il servizio idrico, oppure ancora la stessa cosa è successa in Germania. In realtà appunto la cosa molto significativa è che la soglia minima è stata superata in 13 paesi, quindi siamo sul serio in presenza, come dire, di un movimento di dimensione europea. Il senso profondo, oltre al fatto specifico, cioè dire che l'acqua appunto è un bene comune che va sottratto al mercato, oltre a questo io appunto penso segnali un tema più rilevante, e cioè che in qualche modo la dimensione europea deve tornare a essere una dimensione in cui vengono affermati i diritti fondamentali. Parliamo di paesi molto diversi, perché andiamo dall'Austria alla Finlandia, all'Italia, all'Olanda, alla Slovenia, alla Slovacchia, alla Grecia, sono paesi con delle dinamiche completamente diverse. C'è un filo comune nella politica di gestione europea dell'acqua? Beh, diciamo che se da una parte l'Unione Europea in vari documenti afferma che l'acqua è diritto fondamentale e non può essere considerata bene commerciale al pari di altri, così recita anche la direttiva europea del 2000, poi contemporaneamente le politiche concrete guardano a spingere verso la privatizzazione del servizio idrico. Le cose più significative le abbiamo viste dove è intervenuta la Troica, cioè il Fondo Monetario Internazionale, assieme alla Banca Centrale Europea, assieme alla Commissione Europea, che in particolare per i paesi, penso in primis alla Grecia, alla Spagna, al Portogallo, che hanno avuto gli aiuti dall'Unione Europea, sono state inserite in quei programmi ipotesi precise di privatizzazione. L'iniziativa dei cittadini europei, così come l'abbiamo costruita, non è semplicemente, diciamo, una petizione generica, ma chiede tre questioni molto precise. E la prima è che l'Unione Europea dichiari formalmente che l'acqua è diritto umano universale e quindi l'accesso all'acqua potabile deve essere garantito a tutti. La seconda è che il servizio idrico non può essere privatizzato. E la terza è che questi due principi, e cioè appunto l'acqua diritto umano universale e la non privatizzazione del servizio idrico, siano assunti come punti vincolanti anche nei trattati internazionali che l'Unione Europea negozia. Il commissario europeo Michel Barnier, commissario al mercato interno, è oggi uno dei candidati alla successione di José Manuel Barroso alla guida della Commissione europea dopo le elezioni, ha già dichiarato di essere contrario alla privatizzazione del servizio idrico. Ce lo chiede l'Europa, ha detto. Ma nei fatti ora i promotori attendono la convocazione da Commissione e Parlamento. Quando? La domanda l'abbiamo girata direttamente a Bruxelles. Il dossier è in questi giorni nelle mani di Anthony Gravili, portavoce del commissario per le relazioni interistituzionali Maros Šefčovič. Il punto importante da sottolineare è che questo è il primo grande successo dell'iniziativa di cittadinanza europea. Ora la Commissione è nella fase di ascolto, inviteremo l'organizzazione a spiegare le sue ragioni, ci sarà anche una pubblica audizione in Parlamento europeo. Quindi ora vogliamo ascoltare, studiare la questione e solo dopo decideremo cosa fare. Quindi convocherete il forum per l'acqua? Sì, non abbiamo ancora definito i dettagli, ma probabilmente il 17 febbraio ci sarà l'audizione pubblica all'Europarlamento. Poi la Commissione dovrebbe decidere cosa fare intorno al 20 di marzo, una data importante perché il 22 marzo sarà la giornata internazionale dell'acqua. Dunque, il 21 marzo presenterete una proposta al Parlamento? Per ora prendiamo atto del successo dell'iniziativa europea con la consegna delle firme a dicembre. È partito il percorso, ci sono 3 mesi di tempo, dunque dobbiamo prendere una decisione entro marzo. Ma innanzitutto vogliamo ascoltare le organizzazioni che, certo, hanno avuto un grande successo nella raccolta di firme e abbiamo un grande rispetto per loro. Per questo vogliamo ascoltarli. Poi ci impegniamo a prendere in tempi rapidi una decisione. Ma ad oggi qual è la vostra posizione? Dobbiamo davvero aspettare. Prendere ora una decisione o dire cosa ne pensiamo prima che le organizzazioni abbiano la possibilità di esprimere le loro opinioni sarebbe una mancanza di rispetto nei loro confronti. Per questo ci consideriamo in modalità di ascolto. Quindi stiamo lavorando per poter ascoltare il Forum per l'Acqua e poi prendere una decisione nel minor tempo possibile. Sì o no che sia, insomma, anche questa sarà una tappa storica di un'Europa che prova a chiamare a raccolta i suoi cittadini. Dovrei essere come l'acqua che si lascia andare, che scivola su tutto, che si fa assorbire, che supera ogni ostacolo finché non raggiunge il mare. E lì si ferma a meditare, per scegliere se essere ghiaccio o vapore, se fermarsi o se ricominciare. In collaborazione con Euronet Plus.